lo incudo. E beh, lo incudo. Ehi, cosa c'hai freddo c'hai? Non ho capito, cosa sta per usino? Ehi, c'è... dove c'è il campetto di calcio, mi? Quello centro, dove c'è il centro ecologico. Ehi, va bene. Cazzo, non riesco a cavare pieni di questa cosa, non capire cosa cazzo... Vabbè, io lo prendo nuovo e non devo stare a sventiare, cazzo, stasera. Prima di telefono, la bobe mi si va a recco. No, quel telecomando del condizionatore Amstrad. Capito, a me mi pare che sia fottuto, perché, cioè, l'impulso se lo metto dove c'è in AM, io non so come facevo la volta, il cri-cri lo fammi, cioè l'impulso me lo sento nella radio. Solo che evidentemente è andato da fanculo, perché c'è l'umidità, cosa del genere. Deve essere il quarzo magari. Ma sarà il telefoneccio a cosa? Cioè il numero e se lo vuole nuovo, glielo pia nuovo, se lo programma. Se c'è dall'MD. Ciucucciù. Chi è? Sì. Dormito sono. Tutto arrugito, sì. Perché ho fatto gli agrismi oggi? Non ti sento bene. Ho fatto tre lavaggio stamattina. Ma, cosa hai detto? Non si capisce. Nemmeno io. Guerra a me, invece, come mai? Sarà la pioggia. Perché sta piovendo? Aspetta, tu mi dici che sto facendo cosa? La pei. La pei. Ma la 27 l'ho accesa oggi. Aspetta che sto guardando la tuta se ci vuole pelle. Eccoci qua. Adesso mi sto bevendo un fermetti attivi, vitamina B6 e D, Land, fermenti attivi. Io ho capito un tubo, cosa hai preso? Mi sto bevendo un Land, fermenti attivi, più vitamine B6 e D. Alla fragola. Il tuo rinforzo quotidiano. Cos'è, dolce o amaro? Ciao Mari! Alla fragola, Buono, buono, A pezzettone di fragola. Ciao! Ciao Mari, non mi tosci! Coricato sono. E a te non mi sento, Mari? Già, si sento con le orecchie. Ma ormai c'è qualcuno ogni tanto qua, eh? Noi non ci vai, fare, siamo abbonati qua, capito? Mentre tu puoi andare dappertutto, ma noi non ci possiamo spostare. Vabbè, io ti intendo qua, c'è qualcuno. Che è tuo wifi? Ah, culo, sa cosa da dire lui. Non so, che è tuo wifi? Vabbè. Ma Graziano, ho ripreso i lavori in piazza. No, se ci sono facendo che si grazia, chi ne ha inaugurato un bei. 18 avanti ieri e ieri notte non so quante. E stanno rompendo quel pezzo qua lungo i portoni per non far entrare le macchine, perché stavano entrando di nuovo le macchine. E lì non lo so cosa fanno adesso. Addirittura hanno inaugurato tutti i gossi, sì. Ma loro lì, visto che hanno stanziato 700.000 euro, loro dovevano iniziare a finire. Non credo che, cioè, no, boh, o magari sono finiti i soldi, cosa ne so, boh. Ci avevano il tempo sino al mezzo scorso a finire. E ancora gli occhi non sono arrivati, li stanno facendo. Devono finire quella parte di giù e poi non so se mettono tutte le cancellate, non te lo so dire. Ma quando fanno le piazze d'estate, che per cantare Sassarese, dove non lo fanno più lì, sicuramente lo faranno lì a Latte Dolce. No, lo fanno in quel piazzale vicino alle scalinate. E trarà solo il mezzo a scaricare, non so. Se adesso mettono dei cancelli o cosa, non so dirtelo. So buongiorno che stamani si hanno caricato la maggior parte di tutte quelle griglie perché ne hanno rubato avanti ieri 18, a rimani non so quanto, a poco a poco si tirano bucciati tutti. Vabbè, ripeti Giovanni. Ok, ma lo sa perché non fanno più festa in quella piazza lì? Perché Graziano invece pagare per vedere, per sentire, si affaccia alla finestra e adesso lo sanno e se ne vanno dall'altra parte lui non vede niente, la prossima volta lui paga per vedere. Ah, così è, bobo. Oh yeah, dai, ripetete, arrivo subito, Io ci praticamo rilasciato pure un panettone con lo spumante, roba che non ha fatto nessuno in tutto il quartiere. Una vergogna. E lei mi ha invitato a mangiare la carne che era una ruscella. Solo io non ho mangiato, me ne sono andato. Ma gli hanno invitato, però tu a chi non vi sei andato? Sì, chi mi ha invitato? No, non ci sono rimasto io. E allora? Cosa vuoi allora? Ma dico, in tutto il quartiere sono io che l'ho fatto un pensierino. Latri, aini, pare che venivano di via. Perché tu ne hai di più, gli altri non ne hanno, sicché tu hai fatto il tuo lavoro perché ne hai di più degli altri. Mi ci sono operati come te eri tu, come te eri io, come ci sono stati la maggior parte degli altri di noi. Non è che ci hanno andato nel bicicletto. No, che pretendere, barone, di là non sa c'era nessuno, hai compreso come se funziona la cosa. Però pretendere tutti. Sappiamo già che fanno così, capito? Cacciati di vero guru di frigi, scusate la frase. Allora, adesso non lo so cosa devi fare, stamani è impacciato, non sai cosa devono fare. Non te lo so dire se devono fare una treccia di argini lì, appositamente vanno entrare per le macchine, non so, boh. Avrai che per buone le bancarelle, buone le cacciate, grazie. Fate luogo ma pure i bancarelli a vendere tutti i vini, tutta roba di frufri. Le bancarelle già le facevano un periodo qua, poi però non ne hanno fatto più, non ho capito il perché, c'era un periodo. Vedi al mercatino e non vivi, fatti hanno insabbiata. E poi non ne hanno fatto più, boh. Perché hanno visto che non vendevano niente, allora non ne hanno fatto più. Già ne veniva gente già, sono arrivati dolci e poi non ne hanno fatto più e non hanno compreso la cosa. Non te lo sa più di per carità. Canto e mezzo come te li so fede, capito? Sì, l'abbiamo d'assaggio, l'abbiamo deluso gozzo veramente. Invece fa tante cazzate come te li fanno. Sarebbe stata una cosa bellissima, o no? Ma sono sicuro. A quando si andano in giro tutto, se non fanno in caffè, si può fare il buco di bari di la luce. Ma Perché sono belli in sei fa. Tutti si boccia la parafili. Appena che è finito, comincia a smontare. Davvero. Tutto ci si boccia da voi, grazie a e si rivendili per la droga. E c'è anche il motore di irrigazione a goccia e annaffiamento che innaffia quei giardini. E ti pare che chi ce lo dà galerina? Azzetta, azzetta, pure la casetta l'hanno invato. E che mi dici poi stanno canto per casetta e tutto. Fanno piazza pulita fanno. Speriamo di no. Certo. Beh, fate io, è inutile. Come se è un tempolo, Sassari pulita, ma te vai cazzo che morire le Sassari pulita quando è buru e tu imbrutti, non lo so che io. Di chi è Sassari pulita? Viene gente bucacciona. Quando i nocchi in adanto vieni, passano con la macchina e ne carricheggiano un rimorchio di mondezza. Per carità. Gente pulita che per carità. Ogni maniera se la ciappa. Questo sei contento, cazzo, contento di essere uno pulito, un disordine, cazzo, di freccia, cazzo, boh. Ma se fanno schifo, sono una massa di graziati, cosa, per carità, gente pinghinosa. Questi sono pinghinosi, questi carri, la figura di 31 gatti che ha condizioni cazzo. Ma avrai no che no, sotto casa, beh, tu castellone dirò dranno, e ci sono le pacchine, e il gestello fa la mondezza. Allora se tu sei mangiando un gelato, un bambino, ce l'hai ad Arezzo, girati e l'appazzito, dritto al gestello, no, in terra di lampa. Se non va in terra, come tutti gli altri pezzi di bambini, tutto in terra là, per i passerini, e tirare a da reddu, avanti, dimmi tu. Ma chi so figli russi, cosa non ne la fotti nulla, sa niente. E tutta gente abituata a essere figli russi e a vivere in mezzo a rubico, cosa fa con i sali? Io con me di voi quando sono cacciarato, li vedi da 30 la macchina, li bucano in la mondezza e ce la accudono in terra. Noi che la buona in una busta andiamo a stare vicino a un caccionetto e ce la lampano. Tutti in terra. E qualcuno fa di no che burro, va a danarsi a noi. Che sono i caccionetti a danarsi a me, no? Allora, fa la fatica, cazzo, di non assare lo zappo, a buono in terra, passa i cani, un cane e ti fa mireggia. Ma fa cosa di cosa assare lo zappo e polizia dritto. No, in terra della Borini. Io che lo mattessi, mio garcionetto, non ti credimi, allora tanto ne vengo io. Arriva la garcionetta invece di Burillo. Tra le cacciate e giù in terra. Bravi sono veramente. Chissà, ci ha fatto e poi c'è la multa. Boh, una bella multa. Sì. E se sei in macchina, sequestrata la macchina. A Palafrenia vi stimparani. Comunque no, che non è buccata, multi non è buccio. Ma deve essere giù. Ma per cosa la lampa è terra? Cosa di goccia? Ti vemmi, tieni fuori alla macchina e ti ricudi dentro al guassonetto. Se tu la buoni in terra, passa l'animale, è chiaro che l'animale è bile e frambireggia. E succede un fatticcio niente. Sono una massa di delinquenti, non comprendo che non è la fottinuta, sai? Lo schifo, lo schifo. Schifo è poco. Ah va, puttassi che si infirriate, fa vendessi di bavvintino, ogni a schifo. È bello! Sì, stavo guardando, hanno messo il cancello lì all'entrata, là, giù a tutti. Tutti all'angolino dove hanno spaccato marciapiede. Ma io dico, no, veramente, guarda, no. Poi ci sono parole, poi lì al monte ne hanno rubato, tratta caldaie. Sì. Giù a tutti hanno chiuso e hanno rubato 30 caldaie lì al monte e la, si ammonta più o meno a 30.000 euro al furto e dove l'hanno messo il cancello? Qua e lì è dove hanno spaccato marciapiede, poi c'è la stradina e all'entrata oggi al cancello l'hanno messo, ma l'hanno murato. No, una rete. Una rete hanno in busto, vanno a entrare. Ma a me mi sa che lì vi buonaranno il caffè cancito. Ma quando vengono a fare le feste, aprono. E già l'ho sentito al monte, a Videolina, ne hanno rubato tutte 30 caldaie, mi sembra. Tutte le caldaie che vengono. E si sentono che vengono in tranci, in busto, bacori, gli anni. E gli figli delle piante della luce mi furano il buco. E no, la paura, E no, che so che io un paio di sere che quando marciato verso le nuvole, dice, si intende bianco di gomma bruciata, come ti si brucia nel ramo. Purtroppo io ti ricampa, così è. Sì, andi a furare, allora tu va a campare, andi a furare. Noi che andiamo in giro a scatto un travaglio, visto chi è. Lo so, mica siamo tutti uguali, eh. Ma non va bene, perché se io vedo uno stronzo sotto il naso, mio gli dico cosa, non hai compreso, non è che mi caglio muto come se mi caglia muto un bel niente. E avanti, secondo cosa prende, gli faccio pure la faccia. A chi dice, vai, se Bannelli, che non hanno curato, quelli li paghiamo noi, mica, cosa ti credi che li pagano essi? C'era in una maniera o l'altra li paghiamo noi, è tutta roba comparata con l'originale. Il comune ti ribiglia appena, hai compreso? Se si può rifare i cervellieri, il comune, aumenta di un euro i bulletti della Mondessa, tutti ci hanno recuperato l'originale, forse il burro di più. Vabbè grazie, non è che poi ti puoi compromettere, vai di là fuori, tu fatti i battitori. Qualcosa chiama la polizia. Ma infatti, se no ti fai i battitori e poi sai di battere di petti, Vai di sentare pure in garage, tu ma lo sai, ti devi furare tutto questo che fai in garage. Chi non si attrivina, chi è pure se non lo vai quando dritto da chiuso, non hai compreso, e non posso appetti. Sta poi in carina, ragazzi, una tanto la giovata a pizzi. Sì, vabbè, ma meglio evitare queste cose, ma la gente è fuori di testa, non ne ha futti nulla, capito? Mi sa che vuole pure a fare fuori di testa. Sì, stati gabbizzando che è meglio, va. Ci sta si beve fuori. Non lo so, perché vi entra l'esine, voi dici, stati beve, Luca. Io preferisco stare fuori. Io Mari. Ehi Lu. E dove ne ho presi queste caldaie Lu? Quelle case di ragazze elette che hanno ristrutturato. E sono entrati a rubarle. No, nuove imballate. Bubu, vate caducata. Se no mi muore la cura a tentarli, gatti, pure va a correre, dice, si butta le chivi. E la gente, dai, c'è tutta questa strada, ma, per carità. Ah, ma si casaiere, ma gli inquilini, magari, chi entrava lì invece, si lasci nei casi e non senza riscaldamento. Ah, ma se l'hanno recuperato quando li lasci nei casi. Per carità, mi appena, vedo poi il turista, Ripreso un attimino, Lucio. Un attimo, dai, che mi sto perdendo, sto vicino alla stufa, se no più freddo. Ehi, già sono qua. Beh, gira, gira, a me, cuffo. E ho detto gira, gira, a me, mi bevo un bel misto, rosso, fresco. Ma ti hai bevuto un dagone? Che si sei accolto a capo? Un dagone? Come ti vado a bittire un dagone? Un danone! B3! Vitamina! Landu! Ah, un mutandone dei miei, ho capito! Alla fragola, sonare lui! Boh, Giovanni, tu hai conosci questi mutandone alla fragola? Marlo, ma è cosa che hai fatto Graziano? Comunque abbiamo preso un dragone, ma hai da capo un dragone. Vabbè, poi lui si parla, Mucio Mari. Grazie, lui, ma è cazzo, già lo credo che è buona, è una bella frittata con l'uovo, cazzo, è fresci. Buona fino, mi ha regalato la subbocca, la sabessona. E ancora di frigorifero. Cambia che si dovrà andare. No, ma non arregano, lui, dai, abbassa. Tanto vi raggi un fuoco, mi ha regalato un bel mazzo. Capito, lui? Giovanni, a poi lui vuole entrare a data, so se fate di molti, si afflosciani. Mi ha regalato un bebe, insomma, ho ben ammazzolato, mi ha regalato un amico, capito? E ancora il frigorifero, Eh? La metà l'abbiamo cucciata allora. E la metà avviso ancora, ma forse ti ricusiamo domani. Adesso un po' adesso mi dà un po' con non immagino, va. No, però un amico, sto mandando. Vignetti 70 belli, Perché sono belli, proprio sono selezionati. 70 faragi, 5 euro. Cazzo, sì qui, vabbè. Cazzo, fare così, ma devi cambiare papà, c'è tanto il paradi, magari poi ci appassi, magari non puoi appassi, magari in 2 metri, in 70 sparaggi, però devi farmi il cammino, ma papà 70 sparaggi o lui. No, no, dove vanno loro? Questo qua ce n'è un bel, però non mi dice il posto, ma ce n'è un bel, veramente, adesso nel raggio di 10-20 metri ne fa un bel, in un giorno se ne fa 20 mazzi, ma si fa 90 euro. Secondo, bisogno di punti che mi dice un bel, chiaro, io ripeto, zone non li so qui, so quella canta che si gode. Prima magari in gioventù andavo magari a Ciogga, a Cucumetto, magari io Cucumetto, un cazzo di capo adesso la raccoglia, si può immaginare, non so, un ricercatore, no, assolutamente. Graziano è un cercatore, è bello e pricchia, ma niente sì, ma chi sta mangiando e bevendo, io. No, ma c'è fatto Graziano, un computer è atteso. Per carità. Un dragone c'era, si è abito un dragone azzurra, guarda la fragola, boh! E assolutamente mi convertito, va, fresco, va, poco a poco però, senza esagerare. Danone, gammertino, fresco, fragola, buona riduina, uia, da voi mi ha mangiato 3 nozze, 2 mandorle, un bacio bellogina, 2 caramelle, 1 lamenta e mi sa che sono al cioccolato e so capito. E te vai tu? No, io non ho agito che sto metti in verticale. Ripeti, ho bello bene, ripeti a Luca. Mi ha mangiato anche il bacio bellogina. 2 caramelle e poi cosa mangi mangiato? Il danone e poi cosa mangi mangiato? 3 noci, 2 mentole e buh, a mezzodì cosa ho mangiato? Vuoi sapere cosa ho mangiato? Che tappalette ti ho mangiato? Spaghetti al sugo al ragù. Poi sugo e polpette che ha fatto ieri, che ho fatto ieri notte. Le ho messe con il sugo e le ho fatte al sugo. Favette tenere tenere. Cavra fiori. E da poi cosa vi? Ah, vari tipi di formati. E poi cosa vi? L'insalata, la verde, la tuta. E poi per finire una banana e due o tre mandarini. Solo! Ma dove ti ribollo queste cose? In pazza! Bebe! Bebe lu! E tu capi a morire di fame! Io sto mangiando due dolci adesso. Quelle che ieri me le ha prese. Col guscio le ha trovate sgusciate, non ne aveva. E va bene, mi ripuccio, le ha so buone rumate. Era male, non ti ha mangiato anche il cioccolato che... Ah, però mi senti bene, dai, non intendo che chi ti ha più buono in mezzo, ma vedete voi. Che cane c'hai appresso a me? Il cane che era in casa, sono cucina di tutti. Oh, ma ti vuoi pizzare? Ho l'insidio di un borro, Lugani, Marina. Mi ha preso un bucino di carota, ma tu vuoi fare un mulo, come la fioretta. Falla la cacciatora con le carote. I rimossi, i zampi, la coda e il gappo. Ma vi vuole vino bianco, ci vuole anche, grazie. Ehi, metti il vino bianco anche, l'alloro, rosmarino, cipolline, bonareggio esci, cane la cacciatora. Ah, intendi tu. E a chi male, guarda ragione, mi aiuto Marina, aiuto, te lo taglio io. No, a lui non ha poi qua. No, bella praticamente contro l'agnone, la grassa dello agnello, cioè lui l'aveva cacciata. Quella grassa è tua. Va, se lì la si mangia, ma te la posso appizzare io. Grazie, abbiamo un consiglio come tagliarla. Allora, ma fa lavoro a cucire un corpo di massetta a capo. Fuori giù, qui giù. Ha detto la prima massetta lì. Oh, se no ti vuoi imbruttare, tranquilleggiare. E di consigli chi dai, cazzo? A fine, me di consigli si vende. Meno male la signora non ti dà di retta, già. E se no si vuoi far male a rimane, a tenirlo così, pone un cappio al gozzo, quindi si lo dà un terrazzo, la mantengo. E muore subito, anzi, ritira pure un gozzo. Oh Maria, ma che violento chi c'è stasera? Ragazzo Mari, cazzo, ciao, ciao, buonasera, ben sentito. Mattina immaginate, cazzo. Meno male, la signora a si far rispettare, digli chi si considera di benedetto. Gli scricchioletti, l'atroce cervicale di chi sa manina, faccio strato. Se ti intendono e così per violenza agli animali, che non lo so io. Ma noi non siamo fatti una violenza, noi siamo mamma, diglielo Luca, per sopravvivere. Sì, se non è sopravvivere, quella è una violenza agli animali. Stai in gamba e mangia. Pure in Thailandia e in Cina, bella bella, i così. O se no vai in Vietnam. Beh, un ristorante, uno attacca dall'altra, si addreccia e a sinistra. Tutte le specialità dei cagnolini, anche dei cagnoloni. Ma noi non siamo in Cina. Siamo Ciao Tore, buonasera. Buonasera anche a lei e buonasera anche alla signorina. Catta, non lo so, Grazie, ma ti dai un ciao, Dagna Danto. E allora, tanto che ci ho fatto vedere quanti fanno fuori, fanno piccini. Senta, ci ti intendi la protezione animali? Ti ha detto la zeta, ne ho tanto. A te la metti vicino alla tua tirocia, le luci gialle per la famiglia, ti mangiava gli altri. Tutti gli altri sono altri rossi, sono rimagnati. Ma va a mangiare terra, magna. A me mi ripagava quando la ricavo gli altri. Ah, te la pensate, le scende il top. Ma io se lo mi sono pigiati, gatta, allora i due si pigiavano gli altri. E da poi ti rivendi. È meglio che non ne racconta, che ci intende nei figli. Io sono vero da genere, ero tanto. Più grazie. Era lo più contento del mondo. Ah, Gio Mari, se non tenne ne siti, gli avrò da sete, ho tanto. Senta, lui ha... Sabba discorso, grazie anche a me, Giamba. Aiù, catta. Beh, a mezzo buccio si va a rivedere, catta. A to, cosa bisogna fare, Graziano? Ah, non lo so, ma se non tenne ne siti, la protezione animali, ui ui ui, finza e dubbiaggi. La, la, la, la. Biglietto gratuito, ci ridaggiare di ore. Si può, si può, si può. Perché, signor Bacchisio, buonasera. Hai sentito, signor Graziano? No, ho sentito adesso perché sto provando. Sa, sa, prova. Buonasera, Graziano, buonasera, Tore. 103, vamos a ver. Sempre in coso la cipollina di Sant'Enna. In prova, In prova, in prova. Questa ne ha 103. 1103, capio? Nata adesso, pochi secondi fa. Ok, dai, continuo il mio lavoro, ritiro tutto e poi ci sentiamo. Sì, già siamo qua. Anzi, perlomeno, già sono qua ancora, altri 5 minuti. Vabbè, 5 minuti ritiro tutto, poi mi siedo. Capito? No, sono contento, aspetta, una bomba. Basta, sono Bacchi. Dimmi chi è che chiama, avanti. Buonasera, signor Bacchi. Claudio, ma Luca, tu sì. Sì, buonasera. Buonasera, buonasera, dimmi. Te la stavo salutando, buonasera. Buonasera anche a te. No, io sto provando l'antenna, capito? È una bomba, ma io non quasi, quasi non intendo sto. Buonasera, se mi senti, c'è lo Bacchisio, buonasera. La pazzina in Sant'Enna. Buonasera anche a lei. E come sei col gommino, Giomarì? Eia! Col gommino sono! Vieni di là, gambe all'assala! Passi dietro, dentro le gambe, di soggo! Andave, andave! Benissimo, dai, che ritiro il tutto! Ci sentiamo fra un po'! Mi raccomando, Il lucidente la vei, Sant'Enna! Dio Graziano! Ciao, Bacchisio, ben sentito! Ha detto che sta ritirando tutto, non ti può rispondere adesso. Anda bene. Cata, intesorai anche su Gio Mari. Cata, di tutti i colori ne dici. Che Graziano? E allora? Lo conoscevo, che pecora è già. È una pecora buona, chissà in gioventù cosa ha combinato. Ma io sono preso più già a tiro che gatta, che lui ha tre ossi. E ma con gani, Ed ritirava, si rivendia, ma e te se mi ripagava? Sì, non vi credo io che ha già fatto il show. Ah, io grazie a Dio la pensavo, che festa a Dio? Ehi, ho pensato mi gioco, altro di noi, dai, per voi che mi dizia, te, ti cubri a frasi più, vai, c'ha mamma, tre, vicino alla chiesa, e vivi. Mi mandava a chiamare, sopra a Bigamuccia, chiamava a dirgli di passarlo, subitato a casa sua. Andavo tutta la famiglia, che si vede rimania. E andate a prodigiare io, da poi dico andate a tutti casa, la famiglia, e lì c'è via la iatta. hai te sotto? Sì, boh. No, non è da fare, nella non è caso a chi c'ho, no. Boh, boh. Sono pure i ferri, bisogna farlo. Per carità. Non si può fare, per il piede nella lana più, cazzo. Ancora a ponere a posto, russi, gatta. Quando si decide, gatta, a ponere a posto a filo, questo cristiano, gatta. Ma, bisogna di filo, a ponere a posto. Ehi, è andata a casa dalla miglia, e l'ultima, c'è la metà. Ma è forza, già non tu non ricevi più. Già non credo, Sinanda. Ma non intendi a te, Sinanda. Aspetta che la cucata l'ha servito il caffè a letto ed è della pelle cruciferma, con l'occhiale in punta a rullaccio. Ma ti stava a visitare la casa di signora Franca, e vai! Ma cosa vai? Il televisore acceso vai, grazie. Ehi! Ehi, a che si intende? Strano rumore, tu lo senti tu? E c'è un burro, lo intendo. A ciò che si intende? Avanti il giudice. Per la Lucca del Monte, via con Lucca. Ehi, qua sono, vedi? Qua, qua, in cucina, al calduccio. Quel cane è tuo o della tua signora? Tuo, della casa. Ah, e allora digli alla signora che non tenga conto che non faccia avvicinare Graziano a quella zona, Ma che Graziano è diventato l'uomo pericoloso per gli animali, i lateroti. Brutto, messo che andare. Abbastanza. Certo, secondo che lo intendi, non fate niente di casa. Oh, io, a che punto siamo arrivati, cazzo. La siamo andata bene. Io me la beccata, io. Ehi, assomigliate, fra poco la gente ci mangia le regali, buccuglia. Fa cucare, me la... Assomigliocca, Ma è sulla bandiera che c'è televisione. No! Allora ammazza ragazzi, allora vuoi sulla, ammazza la Marco. È bassissimo. Ma si sente tutto. Perlomeno, alla mia ricezione si sente tutto. Sto capitando a pigliare un telecomando. Da voi. Fai come fui, Da sei mani vaccinato, tutto riprendi. Ciao Marie. Ma beh, per un pedaccio di nuda di chi sono. Aspetta, se ne dai un gaso, fate volare un gaso, se ne dai rana, fate volare la rana, quindi cosa che fu? Ah, io sono bisogno di passare di biccorracci in questa zona, a chi fa di pura, pure i corracci, gatta. In questa zona di piso ho bisogno di più corracci, tu. E poi io sono fuggito tutti nella zona di no, che sono arrivati. Anche qui non ho bisogno più alberi, quindi ne ha fatti pura tutti, ne ha fatti pura. E allora? E fare il mitra, certo, buttata, ammazzallata, come ce la rispara. Così è graziato. Paghi, non mi dimmi, mi sto facendo a distanza, oramai mi conosci. C'è anche una che passa a distanza e ti piando dalla parte di dore. Ma no che non ridocca nessuno, hai compreso che no che non ridocca nessuno. Certo, non so come ti fai tu, no. Oh, Giulia. Era uno che fosse avanti, Mari. S'attiravano i colombi, li pigliavano e verniciava. La bandiera italiana, vari colori, da poi scappava. Tutti verniciati. Ma la sera fernessa, dove era un gambo vissuto? Li bandiera pure tutti i foggetti, l'aereo, i militari, verde. Con le bandiere inglese, rotonde, andiamo. Anche se l'abbiamo fatto tutto un gabbo tricolore, l'abbiamo fatto. L'aereo in magia, da pedinini che lì c'era il servizio, mi parecchiava la bomboletta. E sanno di gabbo era chissù, se vuoi averniciato e tu vuoi averniciato. E pure la bocca l'aveva verniciata da chi su. Vai, poi, c'era tutto rimbambito, con della macchina. E ti la fa nel terrazzo, chissà entrare in un salone, la pesa la valia andata in un salone e la guantava. Beh, dove era? Ah, manco il parito, va. È morto, quando? Sarà 3 anni fa, mi pare, 2 anni fa. Grazie. Ci sentiamo dopo, Giomari, ci sentiamo dopo, che sta andando a prendere la signora io. Eia, d'accordo tutti. Eia, siamo qua. Giomari entra in bagno un minuto. Eia, Luca. Eia, qua siamo, vabbè. Se vuoi tu, se vuoi su Facebook, questa donna, là, si è conosciuta un tempo addietro, una che stava nella storia. La zia di mia piccola è caduta, anziana, no, avrà avuto se o no poi 58 anni così, ma neanche malore, un attimo siamo di passaggio a Rosario, non sei mai tranquillo però sa com'è, quella è una morte bella però alla macchina se la birra ed è tranquilla, no? Come se chi si sono anni e anni maturati 30 lunetto ci vuole manco mobì cazzo è fisso e maru lo so, secondo me la morte più bella è più si ritrovi e ciao, arrivederci. Quella è una morte bella, infatti non te la birri e sei tranquillo Ma Gesù Cristo ha già fatto il simbolo, c'ha sempre i più bravi, capito? Rimani in razza! È vero. E via. Vabbè, faccia la rima sua, là. Vuol dire che arrivi dall'orazione, che cosa si può fare? Siamo di passaggio, sì. Non bisogna pensare, quando vieni, devi andare per forza. Chi dà ragione. Ok, ci sentiamo dopo, Luca. Fa già ora secca, buona Giuseppe. E io sono più bene, Giovanni, un mesino, poco, che non piano. Fai, già sono qua, tanto no, tra un po' andrò a casa. Adesso bevo un bitter fresco. Sì, ho voglia del bitter e me lo bevo. Là, ci sentiamo dopo. E via. Perfetto. Ehi, a chi è? Chi è? Chi è là? Sono ti sollevi, non ti sento nemmeno. Sento solo mettiti in una buona posizione. Mettiti in terrazzino, dove vuoi mettiti, basta che ti sento. Gufo! Dimmi, cosa hai detto? Pronti. Mettiti in un punto buono, se no non ti sento. Credo che dopo ci sono, dai. Tra un po' andrò a casa, ma andiamo da casa. Vabbè, allora niente, io già sono in ascolto, dai, in caso. Va bene, Gufo. Gufo, mi ascolti? Chiama a fare il chiama. Blecco, chiama. Bubu, chi è che fischia? Chi fischia mettiti in una finestra, se no non ti sento. Gufo, mi ascolti? Pronti. Ciucu. Votate Berlusconi, presidente. Ho capito il tubo. Se basso non ti sento in radio, mettiti fuori qua, in un punto dove ti possa ascoltare. Vai al terrazzino, dove ti pare ti piace, basta che ti ascolto. Verso Sassari. Non ti sento ancora, no? Sei basso. Non ti riesco a capire. Prenditi un punto dove sia aperto per Sassari, non lo so, per dove sono io, qui a Carbonazzi. Non so neanche capire chi sei addirittura, figurati. Non ti ho capito, non riesco a capirti. La verità, non riesco a capirti. Se non ti metti fuori in qualche punto aperto, non riesco a capirti. Uissa. Mettiti in un punto buono. Solo non ti sento. Sento che stai appena fischiando, ma non capisco nulla. Prova ad andare in strada, non lo so, fa quello che vuoi, basta che ti senta. Nulla. Non arrivi, no, dove non arriva. C'è qualcosa che non va, c'è. Pronti. Ti ascolto basso. Appena. Chi sei? Non ho capito. Dimmelo piano chi sei. Non sono riuscito a capire un tubo. Dimmi se sei marito di Sandra. Cosa hai detto? Confermi? Sì o no? Sembra strano che... che esci così. Provo a uscire fuori dalla via un secondo, vedere. Da lì ti devo sentire per forza. Cioè uscire dalla via. Uscire da dentro l'appartamento, perché mi sembra strano che non arriva uno dentro l'appartamento. Ti sento poi basso. Sempre basso. C'ho problemi in antenna io, non è possibile però. Ciao Mari! Luca, mi ascolti? Sì e no, Come sì e no? Se non ti metti in posizione buona, Luca, non ti sento manco io, mi. Io sono sempre nella stessa posizione. Sei tu che ti muovi. Lo sai che secondo me arrivi anche al segnale 9 qua. Ma sono sempre nella stessa posizione, ti ho detto. Adesso sei 1-5 di segnale. A me c'è il portabile. Me ne sono accorto che è portabile. Adesso già ti sento. Ma non mi servono grosse potenze, io parlo qua con loro e non me frega, non mi interessa arrivare capo al mondo. Io lo stesso, vabbè, c'ho un'antenna esterna perché c'ho la possibilità di adesso di usare un'antenna esterna. Poi fra due settimane c'è due. Un mesetto appena il tempo migliore faccio i fuori, metto le staffe nuove e piazzo il palo dalla parte opposta e metto l'antenna dall'altra parte, me la prendo nuova per il PMR e l'altra, quella per la V e la U, la conservo e perché non va nuova. Per questa frequenza qui non va bene. Hai capito? La conservo, la metto da una parte e va a far cuffia. Questa cosa è che alla fine non mi interessa, dai, l'ho preso, però guarda, è quasi in vendita, va, credi, non me ne posso nulla. Siamo tutti qua, quasi in vendita, allora tieni qua, cioè, la 27 non la stai neanche usando, allora a un certo punto ti viene anche la 27, che discorso stai facendo. Chi c'è in 27? C'è poca gente tutti i giorni, non è più come una volta, no, che c'è la fila, per dire, adesso la metà siamo qua, l'altra metà siamo in 27. Ah, ma anche io non mi chiede niente, può stare anche lì spesso. Tanto io ogni anno pago il coso, la concessione, perché no, non ho problemi. Sono più che in regola, guarda, se meno lo controllo, non ci sono problemi, capisci? Può rimanere lì, si può pure praticare, guarda, non mi interessa. Adesso parli, perché cazzo sei fidanzato, cosa ti nascosti? È un discorso diverso a me, grazie, anch'io. Parlavo così, poi a un certo punto quando cominciavano le serate dopo che ti sposi, che sei a casa tua, che convivi eccetera eccetera, che non sai cosa fare, stai tranquillo, ti pigli l'apparecchio e lo usi, perché al circolo non ci vai, perché non vuoi spendere, come se, quindi ti dimentichi anche il circolo, per dire. E quindi a un certo punto ti abbandoni a usare l'apparato, il discorso è quello, Luca, non è che anche cioè, se uno si sposa o si fidanza va tutti giù dal circolo, domani avanti. Uno quando è così, quando non sai cosa fare, esci con la fidanzata, te vai per dire al circolo, ti bevi una birra, ti fai un giretto, eccetera, eccetera. Adesso, quando poi uno è sposato, molla tutto, si prende la birra nell'ospizio, la beve a casa, eccetera eccetera. Uno ragiona così a un certo punto, non è che vada tutti i giorni al circolo, no? Quindi. Ma io ho da bere anche in casa, non è quello il problema, me lo compro, capito? Poi vabbè, sono un mirtino bello fresco, di quello di marca, e non un mirto che a me sentivo più fatto quello in casa, ha un altro sapore, tutta un'altra cosa, ma anche questo qua, se del birra se non è male, quindi tanto uno me lo bevo, e c'ho birra, c'ho vino, non è un problema per quello, me le compro le cose, capito? Ma non è il fatto che sto fidanzato o meno, è il problema che non c'è più nessuno, non è più come prima, capito? Comunque a casa ma anche non rimane, non mi devo vedere proprio niente, poi se decido domani perché qui lo sta conto c'è tutto, ma non mi chiede niente, tutto lì spiazzato, senza che paghi la concessione poi. Ma appunto quello stavo dicendo, infatti uno, quando uno è fidanzato normalmente, quello che ti voglio dire, la fidanzata 2 ore al giorno, 3 ore al giorno, non di più, la mattina la sera attaccava la baracchina, ma non sapeva cosa fare. Adesso che ti fai questi lavoretti qua e cosa del genere, tra una cosa e l'altra, le cose sono cambiate, capito? Passi l'ora, hai capito, tutto lì. Dopodiché al circolo ci vai una volta ogni tanto, tanto per andare a metti qualcosa, ma non come prima, per dire che ti facevi una, due, tre birre, quello che era, al limite una cena lì al circolo, no, ormai quelle cose lì sono, non le fa più nessuno, capito? Non è che devi dare a campare, cioè con i soldi che tu ricevi devi andare a campare per dire a uno che c'è un bar o un circolo. Naturalmente fai anche tu i tuoi ragionamenti, a un certo punto i 2,50 se me vado e vado a, per dire a un supermercato, mi piglio la birra o la inchinusa, quella che è, la pago 1,01, me la metto in frigo, la stessa cosa di bella al bar. Tutto lì, te la bevi a casa, non è che te la vai a bere al bar, lo fai solamente qualche volta per dire che non ne fai a meno e ti fai un giro con gli amici, tutto lì e basta. Vabbè, non è la stessa cosa, cioè bella al circolo oppure tra bimbi a casa, non è la stessa cosa, lì ci sono gli amici, capito? E niente, ma comunque ce l'ho a casa, non ho problemi, mi raggio. Vabbè, io sono stessa identica cosa, la verità. Io più che altro mi faccio giù la sera, quando vado al bar vado in giro con qualche amico e mi bevo una birra e basta, poi quando vieni a casa la birra ce l'ho, il vino ce l'ho, eccetera eccetera. Non è che bevo vino di circolo, bevo vino di Santa Maria della Palma, costa 9 euro 5 litri, che è un discorso diverso. Vado a Santa Maria della Palma, me lo prendo, ma io me ne prendo 5 litri e ce l'ho a casa, tutto lì. Anche io faccio questi ragionamenti, quando una volta che si può risparmiare si risparmia, perché non è che vado tutti i giorni a campare che cosa, il bar che poi non ne vale manco la pena, quindi a un certo punto sono anch'io a casa e di adesso mi sto bevendo una birretta qua adesso, dopodiché devo andare un attimino al circolo a portare un telecomando che ho comprato, glielo sistemo e così a posto, mi faccio dare i soldi e poi me ne torno a casa alle 8:30, poi prendo cena, mi tridormo e se ne parla per il domani. Io la penso diversamente, la birretta non mi manca in casa, la compro, vino, fumante, chi si chiede. Nel ciclo si va, trovare gli amici, si beve un caffè, si fa due chiacchiere, capito? Mi capita molte volte che magari mi danno lavoro, mi portano roba da cosa da riparare e così lavoro pure, no? Sì, vabbè, non è che io vado al ciclo e mi portano baracchini, tanto per dire, ormai quella era finita. Poi al centro storico sta tranquillo che antenne di TV non le faccio, non ci devo scendere in cantina. Quando mi dicono mi devi fare un Antonello intanto l'antenna, no, larga per lì, faccia salire quello di Sky, arrangiati. Io in cantina non ci scendo, perché lì già lo sai come sono fatti i tetti. Sono fatti la maggior parte tutti di canne e tegole vecchie, quindi se ti vuoi ammazzare c'era quello, è l'unico modo. Sui tetti, quando sali, se attento è buono sali, se no non ci sali nemmeno. Rimani così com'è. Perché è molto pericoloso. Se vari, poi quelle tegole sono vecchie, non sono molto resistenti. Vabbè, questo come va. Tanto quando fai un'uscita venerdì non è che spendi molto. Fai tra una cosa e l'altra spendi 10, 15, 20, non di più. Più o meno, là. Vabbè, quello già lo so anch'io, ma anch'io non è che... Se esco qui, qua di fronte a casa, 2,50, una birra, so che te l'ha congelata, vista le mettono ad aspettare a smetterla, perché la mettono nel freezer dei gelati. Capite? Quindi mi dà anche fastidio. Preferisco farmi... per dire, mi prendo il tram, scendo giù, via l'elante, vado da Nico, c'ho la Nico, guarda, dammi una birra a temperatura normale e io sono tranquillo, non è che devo crepare cazzo dalla birra congelata, no? Il blocco di stomaco è brutto, mi ho già avuto l'esperienza una volta, non voglio andare a crepare per un blocco di stomaco di birra. Basta berla piano, la bevo piano, anche se è fredda, d'estate, lo stesso, piano piano. Facci di beva, sono un botto, come fa molta gente, fa male, fa solo male. Dice, ma ci vuole perché è fresca, vabbè, ma ti fa ziburumari, piano piano si bevono le cose. Piano piano, no a inguditura. Come hai visto la gente che beve la birra dal freezer col ghiaccio dentro? Io le ho viste parecchie volte quando salivo alla alberghiera. Io ho detto, tu vedrai uno di questi giorni ne pigli qualche cosa, gli ho detto. Pierangelo, quello di Alghero, se non era congelato col ghiaccio non ne beveva birra, io così senza aereo la bevo, lui beveva la birra ghiacciata, così arrivata dal freezer, se la metteva apposta in freezer, guarda te lo faccio dire da Gianni Doppio Rum, se dico balle, cazzo di tuo bu, lui se non è col ghiaccio non ne toccava. No, io così no, già ho capito, già sono andato a casa sua un paio di volte, no, io quando sono andato a casa sua birra non l'ho preso. Ho bevuto il vino con la lanciata. Sì, fa anche male il vino con la lanciata, il vino vuole bevuto così, così come è fatto. Perché fa male al fegato quando gli aggiungi questa roba qua. Così dicono e poi non lo so. Ah, cosa adesso se fa male al fegato? Io comunque l'ho bevuto, il vino lanciata male era buono. Mi sta chiamando che è basso basso. Chi è che mi chiama? Oh, non sento nessuno io. Io sento uno che è basso basso, talmente basso che non riesco a capire cosa sta dicendo. Boh. Non ho capito manco qui sei, guarda, se c'è il numero del telefono mio di casa, cioè di casa, del telefonino telefona perché non riesco neanche a capirti. La verità. Non riesco a capirti, non ci riesco a sentirti, sento ma non riesco a capire le parole. Quindi se c'è il telefono, telefonami, almeno capisco qualcosa. Ma non so cosa dite, io non riesco a capire. No, io non sento nessuno. Senta uno un bel basso, ma basso mi sento solo il fuscio. Non capisco nient'altro, non capire cosa sta dicendo. Quindi l'unica, se c'è il telefono mio, mi telefona, almeno mi dice cosa mi sta dicendo. A un certo punto. Luca, ci sei? E poi non dimmi che non vi so mai, Che stavo chiamando Luca Flipper, che non ho più sentito. Cosa? Ciucucciù. Oh, Luca. Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? bello! Chi è? E beh, Antonio, aspetta un attimino. Ciao Tino, buonasera. Oh, oh, oh, mi senti? E a voglia ti, dimmi. Niente, una tua opinione. E primi, BRL, 210, che cosa monta, ti ricordi? La verità non lo ricordo, ma penso che monti quello del BVC 31 là. Per lo meno, basta staccare la valvola originale e poi ci mettiamo l'alta, qual è il problema? No, no, è perché lo volevano sapere, siccome ritrovando ho il BIM e poi ho un altro linea amplificato per la 27 Hz, mi chiede della marca, è nero, completamente nero, con dei tratti rossi e quello per accordare, però non mi chiede la marca perché al momento non l'avrò. Aspetta, tu stai parlando di quello che mi hai portato a me a riparare che stai dando in pratica. E qual era? Ma quello nero? No, quello nero no. Il brini sì, è quello che avevi tu. Esatto, sì, quello sto dicendo io. Tu stai parlando di quello che mi hai portato a me a cambiare i condensatori più che altro. Quindi quelli montano le valvole normali. Vabbè. Ti ricordi quanta potenza dava, no? 120 watt, tondi. Sono 120. Beh, sono fatte così con le valvole, scusa, eh. Aspetta che, vabbè. Perché volevo sapere uno che forse è interessato. Ma è normale. È come il BVC 131, tale uguale. Non cambia nulla, capito? È preciso. Non è c'è la valvola tipo quella che ho io, per dire, in quelli che ho io vecchio, ma vecchio mi. Quella che monta la valvola americana, che poi, vabbè, sono 20 watt in più, ma non è che sia quel granché. Hai capito? Però cambia totalmente la questione del nesso della valvola. Hai capito? Cambierebbe tutto, quindi è un casino. Ho capito. Le connessioni dei fili cambiano, hai capito, da una valvola all'altra. Una è quella lì e l'altra è un altro modello e cambia, il discorso è quello lì. Non puoi fare niente, è quello che è. Sono 120 watt tondi, non devi provare 200, hai capito, il discorso è quello lì. No, era così, perché ci siamo conservati e li ho riassumati e praticamente li ho messi in vendita, perché tanto non ne facevo niente, capito? Niente, quindi volevo sapere, mi hanno chiesto quanto erogavano. Vabbè, te lo sto dicendo, 120 watt, vabbè, sono veri, non capito, nominali, sono veri, 120 watt, tondi. Ho capito. Oh, io mi ricordo dell'altro, però dopo qualcosa di più lo sai. Sì, ma non vuol dire niente, fregatene, dipende dal wattmetro. Vabbè, segnava qualcosa in più, adesso mi ricordo se era 140 o 160, sinceramente. Siamo lì, mi. Con queste valvole siamo via, lo sai. Vabbè, qua era giusto per dargli un acchitto. Lo so, non ti preoccupare per quello. Vabbè, almeno l'ho risposto e ci c'è. Un altro chi era? Aspetta, aspetta, questo qua l'ho scritto, deixa vedere. Così altro lo leggo. Leggi, dimmi. Aspetta Mario, aspetta. Allora, questo qua ha scritto che monta un EL509, classico finale di riga, TV usato nella gran parte di questi amplificatori. Il circuito di base comune per molti, della ZG del BV131, come quello che hai detto tu praticamente. 509, poi c'è il 519 E poi c'è quello che c'è in pratica è americano, quello che ho io, che ho trovato lo stesso, ma non mi, adesso non mi ricordo la sigla, che è molto meglio, la verità, e costa molto di più. Quello del fanculo, adesso mi ricordo che marca era. E c'è un nuovo che si chiama 6KDC, quello è scaldato quando una calda trasmissione praticamente. Infatti appunto per quello. Dritto, vabbè, è giusto per dargli una cosa così, perché mi ha fatto una domanda, volevo giusto rispondere. Te lo sto dicendo, è così la questione. Allora, sono diverse valvole, sono una è BV131 in pratica, poi c'è quella delle della marca e sono uguali, e sono precise, una è 519 e l'altra è 509. Poi c'è, mi sembra, se non mi ricordo male, è la 6 di capacità, adesso non mi ricordo, la verità non mi ricordo se è 6 di capacità o cosa diavolo sia. Ho dato modello. Hai sentito di quello per pesca a Patamona? Assolutamente, ti dico qual è quella che ho io, americana, in quel lineare che ho io. Quelle costano parecchi soldi, ma loro danno i watt che le danno, hanno 140 watt ognuna. Quindi, cioè avere in casa è come avere un coso, come ti posso dire, un patrimonio. Addirittura, un patrimonio per una valvola, insomma mi sembra un po' eccessivo. Te lo sto dicendo io, valgono più di quelle che montano normalmente, perché infatti erano giusti, hai capito? E le montano quelle cavo di linea di picchi della prima, ti ricordi? Quelli hanno la valvola. Sì, va bene, voglio sapere, se una cazzo costa esageratamente, cazzo 50 euro, l'altra ne costa 100. Ma non vedo questo patrimonio, È la marca americana, quello di Valva, te lo sto dicendo io. Adesso non mi ricordo la verità, ne ho lo smonto. Appena smonto quella valva te lo dico qual è. E poi la cerchi su internet e mi dici quanto vale. Così ti metti la mano in testa, ti metti. Io ho quella americana, cioè l'unica, quella americana c'ho io. Capito. Vabbè, no, la sto usando, la uso così perché sono conservati, non sapevo cosa fare, allora ho preso e l'ho messo in vendita in dei gruppi e uno mi ha contattato, ma cosa sapere solo che era una vendita. Figurati. Vedi che c'ho. Se non mi ricordo male sono 6 valvole, 8. Sono 6, dovrebbe essere 8. Quella del BV131, 509 e 519 c'ho io da vendere. C'è una scatola, c'ho 9. Cosa fai? Non è 11, cosa fai? Cioè, hai visto che metto con la scatola marrone? vabbè, ma sono lì che ti si guardano. Te lo sto dicendo. Sono nuove, non è che sono vecchie, no? Sono nuove. Ne portiamo le cose a casa, poi ho fare il letto ai bimbi. E quindi me ne sto andando, sto punto a quelli calmi anche io, che sono mezzo rimbambito. C'ho anche la L34, la pilota per esattezza, del Jumbo. Sì, vabbè, non mi interessa tanto, non lo uso. Ok, se qualcuno lo chiede basta dimmelo, ce l'ho qua a casa. Va bene, poi se vuoi cambiare. in che senso cambiarla? Dobbiamo cambiare, prima devo mettere differente. No. Quelle che vendo cosa faccio da regalo? Non esistono. Costano un bel 30 euro una con le valvole nuove sono, quindi. Per il Jabba Aristocrat c'ho la pilota, c'è anche il resto. Io me se la parte. Vabbè, no, adesso non ho soldi. Quando sarà lo faremo, adesso non voglio fare niente, non interessa fare niente, tanto adesso lo fanno. Ok, vabbè, quando vuoi non c'è problema, già sono qua a casa. Sono dentro con lo scatolone, già lo sai, con lo scatolone marrone. Vabbè, proprio dai. Sotto, che sono a coricarmi, dopo poi il mese bambino e poi vado a coricarmi. D'accordo, ok, alle prossime, ciao. Bella, d'accordo, ciao. Mario, beggia moto sei Mario, anche la bimbi così, vai mi rispondi. Boh, Mario, stavo parlando con altre persone, scusa, a un certo punto cosa devo rispondere a te? Sotto, se lui arriva più forte di te, scusa. Allora, ascolta prima di parlare. E il valvole ce l'ho anch'io, più di 50 di valvole, grazie a Dio. Buttate la mondezza, perché cazzo ormai hanno pigliato fuoco. Cazzo, ti ha messo fuoco Luigi, cazzo, agente storico. Adesso vuoi recuperare con le valvole, ma vai. Sì, un euro te le comprano, uia. La carità, guarda, lascia perdere Mario. Aspetta un attimino, mi stanno chiamando. Morto sì. Beh, Mario è morto, era ora. Ah, pensavo eri morto, cazzo. Boh. No, sono uscito fuori un secondo a sistemarmi le cose, a spegnere tutto. C'era la stufa accesa, roba del genere, quando sono entrato io. Che cazzo ma così o cosa? Boh. Ah, veramente sono sceso a bermi la birra, quindi la sono bevuta gratis, ma è tutto. Quindi è una cosa diversa, dopodiché abbiamo provato il telecomando e funzionava il mio colpo, tanto per il latte. Beh, mi ha pagato e basta, scusa, ho fatto quello che mi ha chiesto, mi ha pagato, non ho capito qual è il problema, boh. Se tu fai lavoro, cazzo, fai il mio colpo, che non c'è bisogno, cazzo, di portarti le cose, non sei contento? Penso di sì, no? Vabbè, a me mi ha pagato e basta, quindi sono a posto io. Contento lui, contento io. Il discorso è chiuso. Non è che sia a un certo punto... Ma pagato, scusa. Ma pagato a me. E quindi, poi sono andato e mi sono comprato le fine. Infatti ho detto, se vuoi venire tu alla, come si chiama, ti offro 5 euro di vino, vaffanculo, invece non sei voluto venire. La colpa è la tua, cosa vuoi dire ricca io? Poi ho preso il tram e sono salito sopra. E ho fatto il mio dovere, scusa. Vabbè, che c'entra quello? Ti stavo invitando. Tu quante volte mi chiami a questo che sto mangiando, cazzo, scusa. Eppure scendo. Cosa me ne affutti a un certo punto? Dopodiché dico, guarda, ti ho passato dopo, al limite, e usciamo, quello che è. Ma ti ho chiamato perché ho per metti una cosa, intanto sei vicino, un bicchiere di vino non ti costa niente. Stai cenando, ti bevi un bicchiere di vino, qui che torni a casa e basta, poi fai quello che ti pare, ti piace, non è che ti abbia chiesto l'America, no? Grazie a Dio. Mamma mia. Sì, 4-20 minuti, va. Accidenti. Quanto vuoi che tu dici tu, cazzo? Io scendi giù. Questa volta che dici, cazzo, tanto è, scendi giù veloce, eh. E dico, no, sto pranzando. Passa a 4 e mezzo, ti dico. Non te l'ho mai fatto, grazie a Dio. Sono sceso e basta. Il discorso è quello lì. Io volevo portare un bicchiere di vino, perché altro, oppure un caffè se è finito di pranzo, tutto lì. Non è che abbia fatto qualcosa di male, già te la prendi poco già. Sono sceso alle 7:30, già lo sai. 7:30 sono sceso. Per consegnare quel telecomando. Quindi, il discorso è quello lì. Chi me l'ha fatto fare a me scendere 7:30? Nessuno, quindi sono arrivato alle 8:15, lo sai che il tram passa alle 7:20, alle 8:15 sono arrivato là, ho consegnato col telecomando, ho fatto le prove, mi sono bevuto una birra con calma e poi l'ho chiamato e poi mi sono bevuto un'altra. A un certo punto sono andato e mi sono pigliato le pizzette, dato che tu non volevo uscire, a far cuffia, mi sono pigliato le pizzette e ho cenato, sono preso 3 pizzette e sono a posto io, a parte che Simone non ne mangiava pizza, mai tutto, non aveva voglia, quindi ho preso la pizzetta per i fatti miei, pigliavo la faena. Quindi ho pigliato le pizzette, 3 pizzette e me le sono mangiate, me le sono anche godute, non sono l'altro. Poi ho preso il tram, sono salito a casa e sono tranquillo, qual è il problema? Sicuro, sì, domani. Ma tutti cazzo, come pensi tu siano, tu sei una cosa allucinante, cazzo, sì. Visto tuo fratello a casa, secondo te, se beve cazzo il vino o la birra, secondo te sta tua, no? Tu c'hai sempre pensi male, pensi, guarda. Sì, tanto non è tanto fratello, vedrai che scende da te, prende tutto picchia a te. Poi se beve una bella birra, la faccia tua, non pensare così, no? Poi si prende le sigarette, oia, tu pensa là, come ti pare ti piace, tu so che senti. Domani se l'hanno consegnato ieri sera a casa sua, non mi viene a te, te lo aspetti al bar, lo dico io. È peggio di prima, a putti dinni. E ne so qualcosa io. Te lo sto dicendo, è così. Aspetta un paio di giorni e tutto vi giù a casa. Sta tranquillo. Anzi, a casa, giù al circo te lo trovi. E fa quello che vuole, quello che faceva prima. E non ne fotte niente, a fotte dimmi. E tu so come dicendo io. Con le persone a fotte dimmi, fregatele, come ti sto dicendo io. Adesso passano 2 giorni, 2 giorni non di più. E lui è a posto. Scende a capelli di 6 sigarette, non solo l'altro. Solo se le fa portare. Da quella tipa che c'è a casa, intanto c'è la babysitter. Quindi, non è perché io le cose le so, non dirlo a me, io sono più furbo di te, forse non hai capito niente. Sono in mezzo in quell'ambiente. Quindi c'è la babysitter. E certo, te lo sto dicendo io. Massimo 2 giorni, vedrai che lui farà. Anzi, a parte quello. Ci vorrà anche la carrozzina, dice, sai, roba, non ti preoccupare. Quella è la fila degli infermieri lì. Io non divento ricco, la verità. Forse diventerai ricco tu, ma io no. Il discorso è quello. Io me la auguro solamente che tuo fratello viva ancora e ti faccia il testamento, so se è fregato davvero. Sono detto proprio un cazzo. E a te è stato bene a tutti quelli che ci avete come parenti, te lo dico io. Io mi auguro che non faccia una cosa del genere, se no vi attaccate al tram tutti quanti, vi attaccate. Oh ioia, già vi costa già. I debiti, in pratica lui mi interessa tutti i debiti, hai capito? Io devo pagare tutti voi, non io no, voi. Perché lui va, dice, io sono il padrone della palazzina, quindi a un certo punto interessa tutto a voi. E fa attaccata al tram. È meglio che ti... che vai a controllare, te lo sto dicendo io. Prima che succeda qualcosa. E me lo auguro. Controlla che è meglio, tutti i dinni, te lo dico io per esperienza. Fregatene. Sta attento a quello che sta facendo tuo fratello. Potrebbe anche dire che in pratica vende tutto e ti attacca al tram tutti gli attacchi. Ti sembra a te, e l'avvenire è quello. Poi si puglia bagasse, ma se la scena sei qua. Ma tu sei pure in testa qua. Adesso nel 67, cazzo, un'altra di memoria che c'hai, cazzo. Bubu. Anch'io, per questo. Se si è incassato tutti questi soldi fino adesso, sarebbe stato miliardario, ma boh. Cavolo, non direi così perché non è vero, lo sai. Quello sta tranquillo, ci stiamo già dalla dei romani, a futti dinni. Bu, figurati. Ah, sta dicendo bu, ma cosa che sento io? Andava.